Sometimes I get a good feeling, yeah. Il coordinamento lesbiche romane presenta I get a feeling that I never had before, no, no. È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. I just wanna tell you right now that Trasmissione autogestita sugli 87 e 900 di Radio Onda Rossa. Allora, siamo in studio, buonasera a tutte e questa sera ascoltate, tanto per cambiare noi teniamo i numeri, la nostra 328esima trasmissione, quindi è una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, è molto longeva e siamo sempre sugli 87 e 900 di Radio Onda Rossa per il martedì femminista e lesbica autogestito. Eccoci qua, stasera siamo in radio, Stefania come tecnica, Rosina Ciao. Come voce e naturalmente che voce, e poi ci sono io che sono Lucilla e con noi abbiamo una ospite molto gradita, perché l'argomento di questa sera è un argomento alla ribalta nel bene e nel male, diciamo alla ribalta, ed è la gestazione per altri. Ne parleremo con Susanna Lollini, che è avvocata e che dal 2000, poi come vi spiegheremo meglio, quando la presenteremo ancora meglio di così, dal 2000 si interessa di questi aspetti, di questa faccenda, di queste eterne vicende, va bene? E quindi, approfondiremo questo argomento soprattutto sul piano giuridico. E poi ci riserviamo in futuro magari di fare ulteriori approfondimenti. Cercheremo di non dare giudizi di tipo etico o morale, ma di vedere gli aspetti appunto della gestazione per altri e anche di smascherare un po' la situazione, nel senso che questo è un'anticipazione, ne ricorrono nel tempo e sono sempre ricorsi a questa pratica prevalentemente gli eterosessuali, ma sembra adesso essere il bau bau degli omosessuali e di cui avere molta paura. Intanto mandiamo un pezzo musicale e poi entreremo all'interno di questa questione. Allora, ascoltiamo le Au Revoir Simone e la canzone è Dark Halls. We'll be right back. Allora, rieccoci di nuovo in studio e prima di cedere la parola a Susanna Lollini faremo alcune considerazioni in merito a questo argomento. Come tutte sapete, si è da poco conclusa con l'approvazione in Senato del testo Cirinnà la discussione della legge sul testo Cirinnà che come sapete ha riportato, come diceva appunto prima Lucilla, la ribalta la questione della gestazione per altri o come si usa definirla volgarmente l'utero in affitto. È un argomento che rientra nella sfera di quelli che vengono definiti eticamente sensibili. Vedremo più avanti come anche molti altri argomenti riguardino questo stesso ambito. Abbiamo detto appunto, ne parleremo stasera con Susanna che si occupa di questa materia dal 2000 assieme all'avvocato Ezio Menzione. E Susanna ci aiuterà a capire quali sono gli aspetti giuridici che normano questa situazione, che magari sarà complessa dal punto di vista etico, ma invece vedremo è regolamentata attraverso norme generali e contratti privati nei paesi in cui è possibile accedervi. Lo ricordiamo, in Italia questa è una pratica vietata. Noi non amiamo utilizzare il termine utero in affitto, che appunto ci piace poco perché riteniamo che abbia una natura mercantilistica e che connoti questo dispositivo soltanto attraverso un aspetto negativo. E come tutte noi sappiamo, la discussione sulle unioni civili ha visto l'utilizzo strumentale della questione dell'utero in affitto. Tanto che nel DDL Cirinnà è stato stralciato l'articolo 5 che riguardava l'adozione del figlio del partner. Perché diciamo questo? Perché la gestazione, la discussione sulla gestazione si muove proprio da questo dispositivo relativo alle adozioni. Infatti una coppia di omosessuali non potrebbe procurarsi un bambino in nessun altro modo che non sia quello appunto di accedere alla gestazione per altri. E per bloccare questa pratica il Senato ha preferito lasciare centinaia di figli di coppie omosessuali in un vuoto legislativo, privandoli anche delle tutele più elementari e rimandando ancora una volta le singole decisioni in materia alla magistratura, che appunto si troverà a decidere di caso in caso rispetto alle questioni che sorgeranno in merito a questo discorso. È una questione ovviamente spinosa e investe a vario livello le diverse sensibilità e le discussioni che da sempre le donne e le femministe intessono intorno all'utilizzo del corpo delle donne ne sono un esempio lampante. Noi lo abbiamo sempre detto, le religioni, le chiese, le comunità da sempre basano il loro potere, la loro struttura fondante sulla ripartizione dei ruoli, sulla esatta collocazione dei soggetti che ne fanno parte, e il controllo nel modello sociale umano si gioca prevalentemente sul corpo delle donne in una azione che da una parte in qualche misura tende a sacralizzare la maternità, quindi a sancire la non disponibilità del proprio corpo in quanto in base ad alcuni precetti religiosi questo corpo non ci appartiene ma appartiene ad una entità superiore, dall'altra però quello stesso corpo viene utilizzato come merce di scambio, viene sfruttato nell'ambito della prostituzione coatta, viene fatto oggetto di tratta e di femminicidio. È un corpo su cui tutti, lo Stato, gli uomini, la Chiesa, possono tutti quanti dire parola, ma sembrerebbe non le dirette interessate, quindi le donne. L'autodeterminazione dovrebbe muovere tutte le nostre scelte. Abbiamo lottato, continuiamo a lottare perché questo possa avvenire nelle nostre case, sui nostri posti di lavoro, nelle nostre città, spesso con risultati non straordinari, e abbiamo scelto di essere padrone, di gestire o non gestire una maternità. Abbiamo scelto l'aborto, abbiamo scelto la procreazione assistita, la fecondazione in vitro, e siamo, lo sapete ormai tutte, siamo state investite dallo scempio della legge 40, che comunque è stata smontata pezzo pezzo dalla magistratura, che ne ha sottolineato non soltanto l'incostituzionalità ma anche insomma una crudeltà molto profonda. E oggi ci troviamo davanti ad una situazione nuova grazie anche al progredire delle tecniche medicali, e questa nuova possibilità è la gestazione per altri. Anche qui crediamo che ancora una volta siano le donne a dover decidere se farvi ricorso come fruitrici o come portatrici. È un ambito difficile e complicato che ci mette di fronte da una parte all'autonomia delle donne e dall'altra alla necessità di ragionare in merito all'eventuale possibilità che situazioni di questo tipo possano nascondere dei fenomeni di sfruttamento. La preoccupazione rispetto alla GPA, così come in parallelo per la prostituzione, ma qui lo vedremo più avanti anche con Lucilla e Susanna, è capire se nella scelta delle donne che decidono di essere portatrici in qualche modo non si ravvisi una condizione di necessità. Fatti salvi alcune aree geografiche in cui spesso le portatrici si muovono in senso altruistico, non possiamo fare a meno di notare che in paesi dove la povertà, soprattutto quella femminile, è più che diffusa, questo fenomeno potrebbe essere considerato una via più semplice per uscire momentaneamente da una situazione di difficoltà economica. In questo caso le donne decidono, ma decidere in condizioni di bisogno, dobbiamo chiederci se rappresenti davvero una scelta in autonomia o un consenso libero. L'obiezione principale che si può opporre a questa situazione è che per come è strutturato il nostro modello sociale, tutte le nostre scelte in prevalenza sono dettate da condizioni di necessità e quindi ciascuna e ciascuno di noi vende e scambia parti di sé. Quindi il nostro tempo, la nostra forza lavoro, l'ingegno, la capacità e quindi perché non il nostro corpo? Abbiamo detto, come Lucilla ha già accennato, non vogliamo fare un discorso di carattere etico e né tantomeno parlare per tutte, però proprio in virtù di quello sfruttamento, della mistificazione del mercimonio che sempre si è fatto del loro corpo, le donne considerano con una certa riluttanza, una preoccupazione dovuta alla consapevolezza dei pericoli nascosti, le situazioni che investono questo ambito. Allontanare quei pericoli, eliminare le situazioni di disagio, la arretratezza culturale, rimuovere gli ostacoli che impediscono alle donne di esercitare la propria autonomia è la sfida che società e legislatori dovrebbero mettere in campo, senza pensare di poter esercitare un potere sulla loro vita in base ad una distorta concezione morale, perché noi sappiamo che quando le donne sono nella posizione di poter decidere in autonomia fanno delle scelte consapevoli, misurate e ragionate, quindi non hanno bisogno né di suggerimenti né di tutori. Questo per dare una piccola idea di quello che il coordinamento lesbiche romane ha discusso fra di sé nel chiuso delle proprie stanze, e con grande difficoltà, perché anche le nostre posizioni sono state molto travagliate. Io a questo punto lascerei la parola però a Susanna e a Lucilla, e grazie di essere qui, Susanna. Grazie a voi. Ascoltiamo magari prima una canzone, le Bikini Kill, con che ci cantano Tony Randall. Allora, siamo qui in studio dopo questo volo pindarico che ci ha fatto fare Rosina, con la sua splendida voce, però ecco, adesso torniamo qui e stiamo con le nostre voci normali. E la cosa che più di cui più sono contenta è che qui ci sia Susanna, che peraltro è una compagna di vecchia data, storica. Mia storica, abbiamo fatto insieme veramente tante cose, ma senza starsi a dilungare faremo un'altra trasmissione magari su questo. Ma la cosa che ci fa straordinariamente piacere è che lei ci potrà un po' guidare nei meandri della GPA e quindi di che cosa è in realtà, perché ne stanno dicendo delle belle, no? E anche delle brutte, diciamo. Soprattutto delle brutte, si dice Susanna. Allora, intanto la prima domanda: in che cosa consiste e come funziona la gestazione per altri, e quindi in quali paesi è possibile accedervi? Allora, dal punto di vista tecnico, come materialmente si svolge, è una procedura in vitro, diciamo così. Un embrione viene fecondato con un ovulo e il seme di una coppia in genere. E sottolineo coppia perché è una procedura alla quale fanno riferimento soprattutto le coppie eterosessuali, laddove la moglie, diciamo così, ha difficoltà a rimanere incinta, a portare avanti una gravidanza, non può, non ha subito un'isterectomia, ha gravi problemi di salute, comunque non può portare avanti una gravidanza, però magari può donare il suo ovulo, quindi l'ovulo della moglie e il seme del marito vengono in vitro, si forma un embrione che viene impiantato nell'utero di una donna che è disponibile, si rende disponibile a portare avanti la gravidanza. Per questo si parla di gestazionale, perché il patrimonio genetico non è della donna che porta avanti la gravidanza. Al momento del parto il bambino viene dato alla coppia di genitori intenzionali, dei genitori committenti. Poi gli aspetti, come dire, l'uso di certi termini è molto legato alla natura anche contrattuale di questa procedura. I paesi in cui si può fare maternità surrogata sono molto pochi in Europa, poi in realtà ce ne sono più di quelli che forse conosciamo. Si parla di Olanda, di altri paesi nell'ambito europeo di cui però non sappiamo le normative, non conosco le normative, non si riescono a sapere, quindi per me sono inaccessibili. Mentre invece sappiamo che nel Regno Unito, in Grecia, in Russia, in Ucraina è possibile, è regolamentata, anche se a condizioni molto diverse. Nel Regno Unito può essere solo non commerciale, quindi non può essere pagato alcun corrispettivo, soltanto un rimborso spese. In Grecia, in Russia e Ucraina invece viene riconosciuta una somma alla madre portatrice, oltre a una serie di, come dire, riconoscimenti, diciamo, il pagamento di tutte le spese. Viene posto tutto quello che è connesso alla gravidanza viene posto a carico dei genitori committenti. Cioè la donna che porta avanti la gravidanza non sostiene nessun tipo di spese, ma a questo si aggiunge anche una somma vera e propria di denaro che, devo essere sincera, a me sembra sempre troppo poco per quello che significa portare avanti una gravidanza per una donna, no? Tenete conto che molto spesso queste sono gravidanze gemellari e poi sono nove mesi, quindi è lunga, no? Certamente, sono nove mesi in cui, come dire, per certi aspetti queste donne vivono in una sorta di, come dire, condizione favorevole, perché il fatto di essere disponibile a portare avanti la gravidanza per altre le mette in condizione di essere servite, tra virgolette, servite e riverite, il che non toglie che una gravidanza è una gravidanza con tutte le possibili implicazioni. È una gravidanza, non ci possono essere delle complicazioni, non, raramente capitano perché sono in genere molto seguite dal punto di vista medico, per ovvi motivi, perché si sta parlando di un risultato che tutto l'apparato medico che ruota intorno a questa cosa ha interesse a garantire. Quindi questo è sempre molto, appunto, anche l'uso dei termini è piuttosto difficile, quindi un po' elitario, diciamo, no? Ma non necessariamente elitario, perché se ti rivolgi a certi paesi il costo è veramente molto poco, perché alle donne viene dato, viene riconosciuto molto poco. La maggioranza dei costi sono per la clinica che si occupa di tutta la parte della fecondazione assistita, quindi è una parte specialistica, medicina specialistica, quindi costosa, ma insomma in certi paesi nemmeno tanto rispetto a quello che sarebbe per noi, e all'agenzia che si occupa poi di cercare la donatrice laddove non è possibile utilizzare il patrimonio genetico della moglie, diciamo così. In alcuni paesi è regolamentata per legge, per esempio in Ucraina c'è il codice di famiglia e un decreto del Ministero della Salute che regolamenta chi può accedere alla maternità surrogata, con quali modalità, come, che cosa è garantito alla donna. Io parlo soprattutto dei paesi in cui di quali mi sono occupata, perché sono quelli che appunto hanno una normativa, quindi io ho la possibilità di verificare che cosa è garantito e cosa no. In Russia e Ucraina le donne confermano la propria volontà di rinunciare ai diritti nei confronti del bambino dopo avere partorito, quindi è un impegno che si sono assunte prima di iniziare il percorso, ma lo confermano, e questo implica sempre la possibilità di ripensamento. Nel Regno Unito, dove ci sono delle condizioni particolari, addirittura quando il bambino nasce il nome sul certificato di nascita è del padre biologico e della portatrice, cioè della donna che ha portato avanti la gravidanza. Nell'arco dei 6 mesi successivi al parto deve essere intrapresa una procedura giudiziaria che serve a modificare il certificato di nascita mettendo il nome della madre, della moglie, diciamo così, del padre biologico. Però questo implica che la donna che ha partorito il bambino rinuncia ai suoi diritti, confermi l'intenzione di rinunciare ai suoi diritti, il bambino sia stato dato ai genitori committenti fin dal primo momento e la donna che ha portato avanti la gravidanza non si sia interessata del bambino, quindi confermando così una volontà di non averne diritti, di non acquisire diritti nei suoi confronti. Dell'India, per esempio, io non dico nulla, perché è un paese in cui è talmente poca la trasparenza, cioè talmente è impossibile verificare chi decide, cosa decide, se le donne sono d'accordo o non d'accordo, per cui per me è un posto in cui la maternità surrogata è impraticabile. E da quello che so, poi chi si è rivolto poi ha avuto difficoltà a far uscire il bambino, no? Sì, quindi, sì, cioè, dall'India per esempio ci sono delle difficoltà oggettive a rientrare, dall'Ucraina le difficoltà ci sono solo perché non c'è una difficoltà oggettiva a rientrare in Italia coi bambini, c'è la sicurezza matematica però che quando i genitori rientrano in Italia è già aperto a loro carico un procedimento penale, perché è lo stesso consolato italiano a Kiev che fa la segnalazione alla procura, al tribunale dei minori e al comune, in automatico, nel mentre trasmette il certificato di nascita in Italia, perché per i bambini che nascono in Russia, in Ucraina, ma anche in India, nello stesso Regno Unito, dove non esiste lo ius soli, i bambini che nascono non hanno cittadinanza non hanno la cittadinanza del posto in cui nascono. Sono solo teoricamente cittadini italiani in quanto risultano dal certificato di nascita figli di cittadini italiani, ma la cittadinanza italiana l'acquisiscono soltanto al momento in cui il loro certificato di nascita straniero viene trascritto allo stato civile del loro comune di residenza, o meglio del comune di residenza dei loro genitori, o meglio ancora della madre, perché in realtà sul certificato i bambini vanno nella scheda anagrafica della madre di default. Ecco, e in questi casi per esempio la trasmissione del certificato, anche se per esempio nei paesi che hanno sottoscritto la convenzione dell'AIA del 61 il certificato può essere portato in Italia postillato e quindi tu stessa puoi andare al tuo comune di residenza e trascrivere il certificato, per poter uscire dal territorio dove il bambino è nato hai bisogno di un documento valido per l'espatrio, che ti può rilasciare soltanto il consolato, previa esibizione del certificato di nascita, dal quale però naturalmente il consolato si accorge che c'è qualcosa che non torna, sospetta la maternità surrogata e quindi dopo aver fatto la predica, avere maltrattatissimo i genitori committenti, segnala E quindi, poi deve fare rientrare, deve agevolare anzi il rientro in Italia, non deve, non può impedire il rientro in Italia, però la segnalazione è partita, l'azione penale in Italia è obbligatoria e quindi praticamente il fascicolo penale, il procedimento penale è già aperto prima ancora che tu tocchi il suolo italiano, rientro, no? E quindi che cosa succede? Poi loro devono sostenere, devono sostenere un processo penale. Procedimento penale sicuramente. Procedimento e non un processo, quindi. Sì, no, è uguale. Ah. Sì, la sostanza è la stessa. Agli inizi di quando mi occupavo di questa vicenda, arrivavano ancora i carabinieri a Sinere Spiegati alle 6 del mattino, svegliando tutto il vicinato, quindi tutti sapevano che ti avevi fatto qualche cosa. Sequestravano computer, macchine fotografiche, tutto quello che era possibilità, anche le foto sequestravano. Adesso poi la cosa si è sgonfiata, il reato era pesante perché è ancora pesante perché la contestazione iniziale è l'alterazione di stato che prevede da 5 a 15 anni di galera, non so se ci si rende conto, di fatto quel reato continua a venire contestato regolarmente anche se per il momento siamo sempre riusciti ad ottenere delle assoluzioni perché alterazioni di stato non ce n'è, la legge è precisa sul come deve essere formato il certificato di nascita per i bambini che nascono da maternità surrogata e deve essere con i genitori, è una norma analoga a quella della nostra legge 40, laddove si facesse una fecondazione eterologa all'epoca vietata, la legge prevedeva un meccanismo di blindatura, dice così, blindava i genitori in modo tale che il padre non potesse fare il disconoscimento di paternità pur se il seme non era suo, la madre non si potesse avvalere della norma che le garantisce di non farsi riconoscere, la possibilità di non farsi riconoscere al momento del parto. Quindi era come dire, se hai fatto, se hai deciso di ricorrere alla fecondazione assistita anche nel caso in cui questa sia illegale, sei vincolato a quell'accordo, quindi padre e madre sono i due genitori che hanno accettato di fare ricorso a questa. Il donatore di seme, la donatrice di ovuli non hanno diritti nei confronti del bambino. Ecco. Ok. E in Ucraina vale la stessa regola, cioè se un bambino nasce da maternità surrogata è a garanzia del bambino che tutti e due i genitori, non è consentito di fare il padre il bambino è biologicamente del solo padre, bene, mettiamo il certificato a nome del solo padre, poi si torna in Italia, si fa l'adozione del figlio del coniuge e si regolarizza la posizione anche se in modo un po' zoppo, non è possibile, in Ucraina devi uscire con un certificato che ti prevede che garantisce tutti e entrambi i genitori, ovviamente questo da parte del bambino, poi ci sono altre questioni che vanno esaminate, però insomma diciamo che il bambino viene tutelato. Così, almeno questo. Poi naturalmente ci sono possibilità perché si può muovere il tribunale dei minori, capita quando i genitori sono grandi di età, perché, però in quel caso, e ci sono state delle sentenze su questo, il tribunale dei minori non interviene tanto perché si è fatto ricorso alla maternità surrogata, a meno che non si accerti in giudizio che biologicamente non sono figli di nessuno dei due, perché allora a questo punto potrebbe essere un'adozione illegale, cioè non c'è nessun controllo. Ma se viene rispettata la legge ucraina che prevede che il patrimonio genetico sia al 50% della coppia o addirittura al 100%, il genitore biologico è uno dei due. In questo caso il Tribunale dei Minori interviene per verificare l'idoneità dei genitori. Quei genitori. Che però è il tipo di controllo che il Tribunale dei Minori fa anche su una coppia eterosessuale che ha avuto dei figli per le vie naturali, diciamo così, se c'è una segnalazione della scuola che il bambino ha un disagio, cioè si interviene sull'idoneità dei genitori a crescere quel figlio. In questo caso è una curiosità, se appunto i genitori sono molto grandi di età rispetto al bambino che rientra, e parliamo quindi magari di una coppia omosessuale, no? Chi fa la segnalazione al Tribunale dei Minori? Allora, se parliamo di coppie omosessuali, diciamo che tutto quello che abbiamo detto non conta più. Ah, ecco. Perché le coppie omosessuali non possono andare, potrebbero andare nel Regno Unito, ma diciamo che la cosa è molto complicata perché comunque implica che tu sia residente, tu prenda la residenza là, sei soggetta a una serie di controlli perché loro non vogliono che ci sia una specie di esilio procreativo per cui la gente va là per avere un figlio e poi torna indietro, quindi sei costretto a vivere là per un certo periodo di tempo, e questo insomma non per tutti è possibile, ecco. Certo. A meno che qualcuno non abbia dei rapporti di lavoro là e quindi ci passi molto tempo durante l'anno, allora quella è una è cosa diversa, di maniche, certo. In Russia e in Ucraina inutile che ti stia a dire che le coppie omosessuali non ci possono proprio andare, perché lì proprio ci avrebbero un problema a monte non soltanto di fare figli. In India, l'India ha chiuso alle coppie omosessuali, ma ripeto, per quel che mi riguarda dovrebbe proprio chiudere, non ci sarebbero proprio essere problemi. Quindi le coppie omosessuali in realtà vanno negli Stati Uniti e in Canada, e lì sì è elitario, non così tanto come si possa pensare, perché io poi ho seguito le coppie che ho seguito, le coppie omosessuali che ho seguito non sono poi così ricche, no? Però certamente non è una procedura alla portata di tutti, questo è evidente. Bene, allora poi approfondiremo è un altro, cioè è tutta un'altra procedura, sì, diciamo, approfondiremo così negli Stati Uniti, esatto, approfondiremo, certo, un po' meglio l'aspetto degli Stati Uniti. Vogliamo mandare un pochino di musica, perché il discorso è stato lungo e Susanna così beve un attimo. Allora sì, ascoltiamo Lily Wood e The Prick, la canzone Let's Not Pretend. Been spending quite some time trying to fix the way I am in. Chasing all the bad, don't make it good. Even when I was a child, I never trusted anyone. And trying to change me now will get you nowhere. I try to think of this scene, try to handle that. And we try to get along, but we get nowhere. I try to be polite. Let's Bene, ci siamo dissetate, risiamo nuovamente qua in studio. E a questo punto, dopo l'esposizione più che esaustiva che ci ha fatto Susanna, viene da chiedere, ha introdotto, diciamo, la materia del contendere, se così la possiamo definire, attuale. E quindi, siccome ha introdotto la pratica della GPA negli Stati Uniti e in Canada, laddove si rivolgono le coppie omosessuali, che mentre andava la musica Susanna ci riconfermava che sono poi la minoranza, ecco, allora la domanda è questa: cosa avviene alle coppie omosessuali nel loro percorso in questi paesi dove è previsto per loro poter ricorrere alla GPA? In realtà loro laggiù potrebbero pure adottare, da noi che non possono. Dunque, Stati Uniti e Canada sono sicuramente, anche se la situazione è molto diversa, perché noi parliamo di Stati Uniti, ma in realtà non in tutti gli stati degli Stati Uniti è consentito ricorrere alla maternità surrogata. Ci sono stati in cui è regolamentata, stati in cui è diversamente regolamentata, è inutile entrare nel dettaglio, comunque ci sono regole diverse, norme diverse da stato a stato. Ci sono alcuni stati in cui non è regolamentata, perché voi sapete che negli Stati Uniti vale la regola del precedente, per cui ci sono delle, come una struttura leggera di regole molto generali, e la regolamentazione più stringente è data dai precedenti giurisprudenziali, quindi dalle sentenze che fanno stato, molto più che non da noi, ovviamente, perché lì proprio diventano norme di legge, l'equivalente di una norma di legge. Ed è diverso anche da Stati Uniti a Canada. Negli Stati Uniti è consentita, a meno che non sia diversamente previsto, ovviamente, quindi sempre secondo la regola per cui in alcuni stati è diversa che in altri, è prevista la maternità surrogata commerciale, nel senso in cui è esplicitamente consentito pagare una somma di denaro per la donna che porta avanti la gravidanza. In Canada no, in Canada è previsto soltanto un rimborso spese, il che non significa che il rimborso spese non possa essere variamente articolato e che poi non ci sia anche un compenso vero e proprio riconosciuto alle donne, però non in modo esplicito, non in modo formale, mentre invece negli Stati Uniti è previsto contrattualmente, cioè è scritto nel contratto che viene sottoscritto con la donatrice o con la portatrice il compenso che viene pagato. Quindi è un contratto privato tra le parti, è questo? Sì, ci sono dei contratti che regolamentano ogni singolo accordo con la donatrice o con la portatrice, ce ne sono più d'uno di contratti in realtà, sia negli Stati Uniti che in Canada, anche se in Canada naturalmente insomma, è, come dire, gestito in modo... non ci sono delle agenzie come ci sono negli Stati Uniti, proprio perché non essendo prevista un compenso vero e proprio, essendo prevista una maternità surrogata su base volontaria, su base, come dire, come dono, naturalmente avrebbe poco senso che esistessero delle agenzie che gestiscono gli accordi. Di fatto ci sono degli studi legali che però redigono i contratti, perché il contratto viene predisposto dallo studio legale nell'interesse dei genitori committenti, ma c'è un avvocato che invece è l'avvocato che rappresenta la donatrice o la portatrice, che revisiona il contratto con la sua cliente, e quindi c'è proprio un contratto esattamente come da noi ci potrebbe essere per un qualunque accordo. È un contratto vero e proprio, quindi c'è uno scambio, un incontro di volontà e uno scambio di versioni finché non si trova la versione che vada bene ad entrambi, in cui sono contratti seri, non, anche in Ucraina per intenderci c'è un piccolo contratto, ma è un contratto di 3 pagine, traduzione compresa. Negli Stati Uniti sono contratti minimo di 40 pagine, okay. Solo quello per la portatrice, poi c'è quello per la donatrice, poi il donatore di seme, c'è quello con l'agenzia. Decine di contratti. Decine di contratti, no, decine no, ma insomma almeno 3. 4, 5, almeno 3, almeno e ce 3. Ne sono spesso 4 e 5, quando poi non ti fanno vedere quelli sulle assicurazioni, o sul conto corrente, che ecco, quindi... Posso fare solo una domanda, una curiosità mia personale? In questi contratti generalmente viene anche inserita una clausola relativa ad esempio alla rinuncia della portatrice, cioè se la portatrice decide, c'è una possibilità che lei decida di non lasciare il bambino o la bambina ai genitori, insomma ai fornitori del corredo genetico? Guarda, nei contratti prevedono praticamente tutto. Oggi ne leggevo uno in cui era previsto che la portatrice non potesse mangiare gorgonzola. Fantastico. E altri tipi di formaggi freschi. Che francamente ho detto alla signora, per cortesia chiediamo di togliere questa clausola, l'ha fatta l'avvocato, insomma, quindi è per dire che sono super dettagliati, no? Ho capito. E vanno da questi aspetti che sono appunto le condotte che non sono consentite, dall'uso dei coloranti, certo, per i capelli, a certi cibi, all'uso di sostanze tossiche o al fare il parapendio, sì, a questioni un po' più serie, certo, che sono appunto l'interruzione della gravidanza, la rinuncia dei diritti. Certo. Allora, da tutte le il contratto è finalizzato a che i genitori committenti abbiano il bambino. Certo. Quindi è chiaro che è tutto previsto in modo che, come dire, la portatrice collabori al momento in cui, faccio una parentesi, il contratto è un contratto, ma la formazione del regole e rapporti tra le parti, ma la formazione del certificato di nascita dei bambini non è frutto dell'accordo delle parti, è frutto di un provvedimento giudiziario, cioè in alcuni stati prima della nascita del bambino, in altri stati dopo la nascita del bambino, il giudice convoca le parti, in particolare la portatrice e il marito o il compagno, insomma, se ci sono, che hanno anche loro sottoscritto il contratto, e chiede, verifica che ci sia un contratto, che l'accordo sia stato sottoscritto liberamente, che la portatrice sia stata consenziente, che non sia stata forzata nella volontà di accedere a questa procedura, e se intende, conferma la propria volontà già espressa nel contratto di rinunciare ai diritti nei confronti di questo bambino. Se la portatrice conferma tutte queste caratteristiche, tutte queste condizioni, il tribunale, la corte, stabilisce che il certificato di nascita possa essere fatto indicando come genitori i due genitori committenti. La stessa cosa vale in Canada, anche se in Canada è sempre fatto dopo la nascita del bambino, solo negli Stati Uniti ci sono alcuni stati in cui è possibile fare un pre-birth, altrimenti è sempre successivo. Quindi questo per dirti, c'è qualcosa di più che semplicemente il prevedere che la portatrice possa cambiare idea. Ho capito. No, ti facevo questa domanda perché qualche giorno fa sul Mattino di Napoli è uscita questa notizia di una portatrice thailandese che aveva prestato il proprio utero per due padri statunitensi. Mm. Una volta nato il bambino, la portatrice ha deciso che, siccome i due erano gay, erano omosessuali, non erano normali, ha deciso che non voleva più cedere la bambina, tra l'altro una bambina Carmen credo che si chiami, e quindi sono 7 mesi che la bambina è nata e sono 7 mesi che i due americani sono bloccati in Thailandia perché non riescono appunto a sbloccare questa situazione. Quindi mi chiedevo se magari all'interno di questi contratti c'erano, non so, delle penali per la portatrice. Ma in Thailandia per esempio è un problema, posso dire, ben gli sta, cioè, di essere andati in Thailandia, perché, cioè, voglio dire, devi anche guardare, tristemente famosa anche per altre situazioni. Sì, ma poi mi sembra, siccome è chiaramente un modo per sfruttare dal punto di vista economico, certo, delle condizioni economiche più vantaggiose, in Thailandia non si porta un bambino fuori dal territorio senza la madre. Certo. Cioè, il discorso facevamo prima. Ecco. Quindi proprio non è, oddio, certo, può essere forse fatto qualche accordo sotto banco, ma questo vale anche in, cioè, se, allora, se parliamo delle cose fatte secondo regola è un conto, poi sotto banco si può fare qualunque, certo, cosa, naturalmente, illegalmente si può fare qualunque cosa, quindi si possono anche adottare i bambini illegalmente, questo in tutte le parti del mondo, se vai a guardare. Però diciamo che, allora, un conto è quello che si può fare, e si possono fare, ahimè, tante cose. Un conto è quello che viene fatto secondo certe regole. certo, no, non è che uno può garantire sempre che vengano fatti secondo certe regole. Io ti posso dire le coppie che ho seguito e da questo punto di vista, che siano coppie eterosessuali, che siano coppie omosessuali, e in maggioranza sono coppie eterosessuali, una delle regole è proprio quella di stare a quello che la legge prevede, anche perché è l'unica garanzia che si ha al rientro in Italia, perché è vero che dagli Stati Uniti e dal Canada i problemi non ci sono, perché stiamo parlando di paesi in cui vige lo ius soli, quindi i bambini sono cittadini americani, cittadini canadesi, tornano con un loro passaporto, sono tutelati dal loro diritto nazionale, perché lo stato di figlio viene determinato in base al nostro diritto internazionale privato sulla base del paese di nascita di cui loro sono cittadini. Quindi, però è vero comunque che quando rientrano, se teoricamente lo Stato italiano decidesse di creare dei problemi ai genitori, l'unico, come dire, l'unica valvola di sicurezza è il fatto di avere rispettato le leggi, cioè di poter garantire che il patrimonio genetico è in parte loro, cioè di stabilire comunque che c'è stato un rispetto delle regole, che negli Stati Uniti per esempio è garantito da un procedimento giudiziario che viene fatto, che potrà essere equivalente al nostro procedimento di volontaria giurisdizione, non è un contenzioso ovviamente, però è pur sempre un provvedimento giudiziario, cioè ci sono, non so, ora sarà perché per me queste cose hanno valore. Poi al di là del ma è così, cioè che c'è una tutela, no, in qualche maniera, cioè la legge stabilisce, no, non e solo quindi... negli Stati Uniti e in Canada i contatti con le portatrici si tengono dall'inizio alla fine, cioè ci si sceglie, no? Quella cosa, il rischio che dicevi tu, che la portatrice thailandese ha scoperto che erano omosessuali, ecco, negli Stati Uniti e in Canada non esiste, perché tu la conosci prima e tu scegli lei, ma lei sceglie te, perché se ci sono alcune portatrici per esempio che dicevano no, io per coppie eterosessuali bambini non ne porto, perché le donne di queste coppie sono insopportabili. Abbiamo letto alcune preferisco interviste. Sicuramente farlo per una coppia omosessuale, ci sono donne che ti dicono no, io per una coppia omosessuale non lo faccio, oppure io lo faccio però non abortisco, quindi non, perché sono contraria all'aborto, quindi una volta che io sono incinta il bambino nasce così com'è, non faccio nemmeno tutte le analisi per verificare, perché comunque e su quello non ci sono, non c'è possibilità, non c'è storia, il bambino certo. Te lo prendi come, anche nel caso in cui per esempio, per farti un esempio, è previsto nei contratti, si regolamenta tutta la parte dell'interruzione di gravidanza, sì, nel caso che il bambino abbia dei problemi, nel caso in cui la donna abbia dei problemi, certo, perché se ci sono dei problemi di salute per la portatrice decide e i genitori non hanno voce in capitolo. Vorrei vedere. Se invece, però viene messo per iscritto, certo, tanto perché certo, non ci siano dubbi, se invece i problemi sono del bambino, sono i genitori che decidono, salvo parere, previo parere del medico, naturalmente che è il medico della portatrice, perché una volta che è iniziata la gravidanza e esce di scena la parte specialistica, diciamo così, della procreazione assistita, la gravidanza viene seguita dal dottore, dal ginecologo, dall'ostetrica, certo, che sia della portatrice, che è quella che magari ha seguito i suoi figli, le sue gravidanze precedenti, lei partorisce nel suo ospedale, cioè inizia una gravidanza normale che viene seguita come lei avrebbe fatto se quello fosse stato figlio un suo. Figlio suo. Quindi se il suo ginecologo dice che ci sono dei problemi, che si decide il da farsi. È vero che viene chiesto che cosa vuole fare la coppia dei genitori committenti, però nel rispetto di quelli che sono stati gli accordi contrattuali, cioè se la portatrice dice io abortisco soltanto in caso di grave malformazione, se non c'è una grave malformazione la donatrice, la portatrice non abortisce e non ha nessuna penale se non abortisce. Ho capito. Soltanto nel caso in cui ci sia una grave malformazione e la portatrice decida di non abortire nonostante quello che si era impegnata a fare, il compenso viene interrotto, diciamo così, ma il bambino è sempre dei genitori committenti, quindi non è che questa situazione cambia. Ora, è chiaro, ripeto, tutto si può poi discutere in concreto, no? Però siccome è un'esperienza che se esci dalla parte contrattuale, e io lo dico sempre, cioè non vi illudete che siccome è tutto contrattualizzato, siccome è tutto stabilito, tutto avviene in laboratorio, non è così. Quando inizia la gravidanza è una gravidanza normale, quindi ci sono tutte le implicazioni di una gravidanza normale, però è anche un'esperienza comunque umana molto importante, perché le portatrici sono molto partecipano molto, perché loro sentono molto questo fatto, no, non soltanto perché naturalmente sono incinte, ma perché sono proprio loro sono molto, hanno forte questa sensazione che loro vivono un'esperienza che non puoi vivere tu. Sì. Quindi sono soprattutto nei confronti delle donne, anche nei confronti dei padri, ma nei confronti delle donne hanno una, delle mogli hanno un atteggiamento particolarmente attento, perché c'è un problema, perché le donne, le mogli, diciamo così, le madri committenti sono arrivate a quella decisione perché non hanno potuto vivere un'esperienza, e sono, in genere vengono da esperienze molto dolorose sulla loro pelle, quindi per loro è una grande sofferenza una gravidanza che per loro non è stata possibile. Sì. Quindi si crea proprio un rapporto tra queste due donne, perché una cerca di far vivere all'altra un'esperienza che non potrà vivere mai, senza fargliela sentire come una, io sono capace di fare qualche cosa che tu non hai saputo fare. Certo. Allora, io capisco che si parla di maternità surrogata, per carità, però guardate che è un'esperienza, e lo dico perché l'ho proprio vissuta con le donne, l'ho seguita con loro, è un'esperienza molto forte, molto, molto. E io sono sempre molto stupita di come queste donne americane, insomma, ora dico loro, ma anche le canadesi, siano così attente, così sensibili rispetto a certe cose. Rivendicano anche una loro autonomia, cioè io so fare figli, li ho già fatti, non perché, mi puoi venire a insegnare tu. Perché infatti è così, farli, no? Negli Stati Uniti, se abbiamo capito bene, le portatrici devono aver già avuto dei figli loro. Dovunque. Anche nei paesi, anche in India, anche in Thailandia, devono avere già avuto figli. Ok. Guarda, e te lo dico proprio da un punto di vista mercantilistico, perché devi avere la garanzia che non se lo vogliano tenere. Certo. Avendone già, non hanno questo, non si trovano di fronte a un'esperienza sconvolgente che non hanno mai avuto. L'hanno già avuta, ma soprattutto, sai, credo che difficilmente, se parliamo di donne in stato di bisogno, difficilmente sarebbero disponibili a tenersi un altro bambino che per loro rappresenta la sua bocca da sfamare. Certo. Allora, a me sembra, e a noi sembra, che sei stata più che esauriente, e abbiamo parlato sforando tantissimo, ma che va benissimo così. E quindi è stato, noi ti abbiamo anche un po', no, sobillato, ci ha fatto piacere che tu abbia parlato in maniera così esaustiva di questo argomento, anche appunto smascherando, come dicevamo all'inizio, alcuni elementi dove appunto gli omosessuali poi sono alla fine una minoranza questo aspetto ha tantissime sfaccettature, tantissime, cioè, la gestazione per altri è veramente la maternità surrogata ha veramente tanti elementi e tanti aspetti, e niente, quindi credo che possiamo salutarci qui. Grazie Susanna. Di niente, sono stata molto contenta di poter chiarire. Ci sarà occasione di parlarne di nuovo, di tornarci sopra, perché le cose vanno avanti e sarà interessante. Che poi io vorrei che fosse chiaro, qui non si tratta di convincere nessuno, ovviamente. No, assolutamente. Però io, ecco, a me dispiace molto, capisco le obiezioni e ce ne sono tante e sono la prima a vederle. È veramente non tiene conto dell'esperienza umana che è per moltissime persone questa procedura, il fatto di trattarla come è stata trattata ultimamente. È ingiusto in maniera strumentale. Noi vorremmo invece lasciare aperte molte porte, anche qualche finestra, così c'è un po' di riscontro e perché affinché di questa storia della maternità surrogata, come di tante altre faccende, tra di noi, tra donne e tra donne lesbiche, se ne parli in maniera più compiuta, al di là poi dei singoli giudizi o delle singole esperienze che ci portano anche a formare un proprio giudizio morale, mettiamola così, o comunque un proprio, una propria, no, idea, ecco. Quindi ancora una volta dico, ringraziamo Susanna Lollini per essere stata qui con noi, vi salutiamo perché ci vedremo tra 15 giorni ancora, vi invitiamo alla prossima proiezione alla Casa Internazionale delle Donne, invitiamo anche Susanna, già invitiamo anche Susanna, certo, naturalmente, che ci sarà il 16 aprile alle ore 19 e che sarà un narrativo finalmente. Margherita, esatto, e con, in collaborazione, il coordinamento Lesbiche Romane in collaborazione con Immaginaria, quindi vi aspettiamo anche per quell'occasione. E buonasera da Lucilla. Da Rosina. Ciao. Ciao anche da Susanna. Da Stefania. Ecco, Stefania ha voluto dire il nome per ultimo. Avete capito? Va bene. Allora, grazie ancora Susanna e fra 15 giorni. Buonasera a tutte. Buona serata. Sometimes I get a good feeling, yeah, yeah. I get a feeling that I never, never, never, never had before, no, no, yeah. Avete ascoltato? È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, a cura del coordinamento Lesbiche Romane sugli 87 e 900 di Radio Onda Rossa. I really do believe that something's got